che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, in particolare a quelli che stanno ascoltando in questo momento I Colori dell'Anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 e ogni sera, quindi ogni volta I Colori dell'Anima vi porterà un argomento diverso con un colore diverso. Vedremo poi più in là qual è il colore. Il colore, ecco, facciamolo dire subito a Carla, che è la nostra ospite in studio. Buonasera Carla. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare dell'argomento, sì, diciamo il colore, qual è? Rosso. Rosso. Rosso, allora, fuoco, rosso va teatro. Va bene, poi ce lo spiegherai, anche se hai già anticipato l'argomento della trasmissione di oggi, o almeno una parte dell'argomento della trasmissione di oggi che riguarda il teatro. Quindi, intanto, benvenuta a te Carla. Grazie. Allora, Carla che è presente nella veste di regista questa sera. Giusto? Questa sera sono in veste di regista, giusto. Allora, io saluto Anna Maria. Buonasera a tutti. Poi saluto Guido. Ciao. Tu sei invece presente in veste di? Attore. Di attore, benissimo. Poi Jessica, buonasera Jessica. Buonasera. E infine Vittorio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, quindi abbiamo questa sera, siamo veramente al completo con un bel gruppetto di persone a parlare insieme a me, Rosanna, di Italiani a Teatro, ma a parlare anche dell'associazione Emergency, e vedremo appunto meglio cos'è questa associazione, cosa fa in generale, cosa fa a Bruxelles in particolare. E quindi, se restate con noi all'ascolto dei Colori dell'Anima, scoprirete tutto questo fino alle 22. Allora, Anna Maria, come stai? Abbastanza bene, devo dire. Hai trascorso delle belle vacanze di primo novembre? Ma direi di riposo. Di riposo, sì, va sì. Bene. Ecco, io ricordo anche che la trasmissione va in diretta ed è oggi, quindi 4 novembre 2013. Allora, Carla, andiamo subito con te. Io vorrei subito dire che sei una voce radiofonica, sia in Italia che in Belgio, giusto? Vero. Cosa facevi in Italia? In quale radio parlavi? In Italia, stiamo parlando di 20 anni fa, ho fatto degli interventi e ho co-condotto delle trasmissioni a Radio Popolare a Milano. E qui in Belgio, invece, dal 95 al 2000, ero conduttrice di alcune emissioni per Radio Sì. Radio Sì, che adesso non esiste più. Comunque, questa è la ragione che ci accomuna, perché all'epoca anch'io conducevo una trasmissione su Radio Sì. Allora, teatro rosso. Ti piace rosso il teatro? Teatro mi piace molto, è una delle passioni della mia vita. Mi ricordo, perché diciamo che nasce dal fatto che ho lavorato per 3 anni al Piccolo Teatro di Milano insieme a Giorgio Streller. Grande maestro. Mamma mia, che non nomi. Si può nominare. In effetti io mi occupavo della parte logistica delle tournée, quindi non è che il suo genio teatrale mi abbia in un qualche modo sfiorato, però il fatto di poter assistere alle prove, di avere il privilegio di conoscerlo, di parlarci anche in chiave molto personale, privata, questo sicuramente mi ha in un qualche modo contaminato. Bene, allora, quindi abbiamo detto, l'ho anticipato prima, che tu sei regista teatrale. Cominciamo subito con questo spettacolo teatrale che ci sarà a breve, quindi è bene che lo ripeteremo ancora nel corso della trasmissione, ma diciamo che spettacolo è e quando andrà in onda. Allora, lo spettacolo si intitola La Selezione, ne ho curato l'adattamento e ne seguo la regia. È stato tratto da El metodo di Jordi Carceran, un autore catalano giovane che fa un teatro un po' di rottura. Andrà in scena al teatro Lumen a Chaussée de Bondel 32, è un teatro che si trova proprio dietro la Maison de la Radio a Place Flagey. Il venerdì 15 e sabato 16 novembre sarà possibile acquistare i biglietti direttamente a teatro. È sempre benvenuta la prenotazione, che si può fare sul sito www.cafferistretto.org oppure telefonicamente. Daremo il numero anche più volte nel corso della trasmissione, 0486 066 918. Allora, Guido, Carla ti fa sudare? Assolutamente sì, tanto proprio. Dunque, visto che mancano meno di 2 settimane, immagino che adesso le prove saranno molto intense. E vi ringraziamo per aver trovato il tempo di venire in radio, fra l'altro. No, ringraziamo noi voi per averci invitato e per averci permesso anche di... così, di presentare. Si chiama promozione. Allora, Guido, che significa per te teatro di rottura? Beh, dunque, teatro in generale, prima di arrivare a rottura, significa passione. C'è una grande passione da parte di noi tutti, c'è la voglia di fare qualcosa di bello, c'è la voglia di impegnarsi insieme, di tenere un gruppo unito verso un obiettivo. Credo tra l'altro di poter dire che stiamo riuscendo bene, perché dalle prove, insomma, ci aspettiamo una buona performance finale. E sulla rottura, Carla, aiutami. Ma teatro di rottura, io uso questo termine per dire quegli spettacoli teatrali che non rassicurano lo spettatore, che non lo fanno andare via contento di aver assistito ad una cosa simpatica, carina, rassicurante, tenera, dolce, dove tutto si stempera in un bel finale, dove tutti si vogliono bene. No, il teatro di rottura è quello che mette in scena spudoratamente, ironicamente, testardamente, delle tematiche dure, difficili, ma poi lo svolgimento sulla scena è anche allegro, simpatico, ironico, brillante, ma la tematica è là e lo spettatore se la porta a casa. Teatro impegnato in questo. Sì e no, sì e no. Beh, attenzione a usare il termine rottura. Esatto, non si sa mai. Anche questo è vero. Comunque, insomma, cioè, rottura intesa rispetto ai canoni tradizionali, non certo rottura indubbiamente, in senso lato, ecco. Indubbiamente, volevo solo sdrammatizzare. Allora, quindi in questo spettacolo ci sono 6 attori, sbaglio? Gli attori sono sei, ne ripetiamo i nomi, sono tutti bravissimi, sono tutti molto impegnati, le prove sono massacranti, ma loro sono sempre puntuali, quindi grazie a questi attori che stanno dando veramente il meglio. Ci sono 3 donne e 3 uomini, Tiziana Arcarese, Gianluca Brunetti, Alessandro Cisotta, Rosalba Romagnoli, Agnese Litti e Guido Castellano è presente, insomma. E devo dire che è un bel gruppetto ben amalgamato e che darà buoni risultati. Benissimo. Allora, caratteristica di questo spettacolo è che il ricavato andrà all'associazione Emergency. E parleremo appunto un pochino anche di Emergency nel corso della trasmissione, ma magari chiederei a Jessica se ci puoi dire così in modo semplice, se ci puoi spiegare cos'è Emergency. Beh, innanzitutto riprendo il colore rosso, che è il colore di Emergency, anche lì il nostro logo è rosso, come se conoscete già l'associazione l'avete visto, la classica E, sono 3 strisce cercate con un cerchio giustamente rosso. Emergency è un'organizzazione indipendente e neutrale che è stata fondata nel 94 in Italia e lo scopo è di offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra e di povertà. Per fare questo costruisce ospitali in zone di guerra e ci sono anche dei poliambulatori che si muovono in Italia. Possiamo dire che assomiglia a Medici Senza Frontiere o non c'entra niente? Lo scopo è di curare delle vittime di guerra e di povertà. Quello, voglio dire, sono sempre organizzazioni umanitarie. Emergency promuove anche una cultura di pace, solidarietà, rispetto dei diritti umani, e quello che fa è veramente un progetto a lungo termine, perché comunque costruiamo ospitali in zone di guerra, e una volta che l'ospedale è autosufficiente viene lasciato alle autorità locali. Le persone locali vengono formate per poter utilizzare i macchinari, che sono comunque di alta qualità, per cui macchinari che si possono trovare in Europa, negli Stati Uniti, e che in queste zone come l'Africa ad esempio non si trovano, per cui le persone non sono abituate ad avere a che fare con un certo tipo di macchinario, e per cui è veramente un progetto a lungo termine. E l'idea è che una volta che le autorità locali vengono in possesso di questi ospedali continuino ad offrire delle cure di alta qualità e gratuite alle vittime, per cui è per questo che ho deciso di essere volontaria, perché è veramente un progetto sostenibile. Sai, Rosanna, che uno dei primi progetti che hanno portato avanti Emergency, l'organizzazione, è stato addirittura in Ruanda, guarda caso, guarda nel 1994. E Anna Maria, infatti, dove ha vissuto molti anni della sua vita? In Ruanda. Ruanda. Giustamente, Emergency è stata creata nel 1994, esatto, con la guerra civile in Ruanda, esatto, e il primo ospedale. È stata la prima cosa che mi è un po' rimasta impressa. Beh, immagino. Sono andata un pochino a documentarmi questa coincidenza sull'organizzazione. Sì, è vero. Allora, nonostante il nome che può sembrare inglese, anzi non è che può sembrare, il nome è inglese, sì, ma l'associazione è stata creata in Italia nel 94 da Gino Strada, la moglie Teresa, e per cui sì, è di creazione italiana. Comunque ci sono di più, cioè sempre di più gruppi che si trovano al di fuori dell'Italia per raccogliere fondi, per cui attualmente ci sono dei gruppi in Giappone, negli Stati Uniti, in Svizzera e nel Regno Unito, ed eccoci qui in Belgio. È da qualche anno che il gruppo si è formato ed abbiamo ottenuto lo statuto di ASBL, per cui lo statuto belga di quello che sarebbe in Italia, lo chiameremo ONLUS, per cui ASBL, l'associazione internazionale senza scopo di lucro. Abbiamo ottenuto questo statuto quest'anno, nell'estate del 2013. Va bene. Allora, torneremo ancora a parlare di teatro e di Emergency, naturalmente. Io propongo una piccola pausa musicale, ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando. Rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima. Ed eccoci con la nostra chiacchierata sugli italiani a teatro, e in particolare la trasmissione di oggi prende spunto da uno spettacolo intitolato La Selezione, che ci sarà qui a Bruxelles il 15 e 16 novembre presso il Théâtre Lumen, che si trova sulla Chaussée de Bundal numero 3236 nel comune di Ixelles. Per prenotazioni, lo ricordo, l'ha già detto Carla, ma lo diremo ancora, 0486 066 918. Allora, tra gli attori c'è Guido Castellana. Guido, è la prima volta che fai teatro? È per te una novità o sei già un esperto attore di Bruxelles? Dunque, io ho cominciato una decina di anni fa, ho una quindicina almeno di commedie alle spalle, quindi forse posso dirmi abbastanza sperimentato come attore amatoriale, e è la prima volta che lavoro in questa compagnia, che tra l'altro è nuova, quindi siamo per la prima volta tutti riuniti con questo nuovo spettacolo. Ho fatto di solito ruoli più o meno brillanti, mi sono impegnato anche con una compagnia che lavora con i bambini e gli adolescenti, quindi ho fatto Capitano Uncino, ho fatto Bert di Mary Poppins, ho fatto il cappellaio matto in Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi ho spaziato, diciamo, tra diversi ruoli che sia anche come compagni di avventura, mi sono ritrovato da bambini di 3 anni a adulti, persone della mia età, anche più grandi, eccetera. Ma per te è una passione che hai scoperto qui in Belgio o che avevi già da prima e che poi hai continuato a coltivare? No, come spettatore è una passione che mi accompagna da parecchi anni, quindi fin da ragazzo ho frequentato regolarmente i teatri come spettatore. Poi come attore sono entrato veramente un po' per caso nel mondo degli attori amatoriali e ho iniziato perché ho visto, appena arrivato a Bruxelles, quindi 11 anni fa, sono andato a vedere una commedia italiana, che era una commedia di Edoardo De Filippo, e io sono napoletano e invece nella compagnia che recitava la commedia di Edoardo non c'era neanche un napoletano. Mamma mia. E quindi orrore. Alla fine della commedia contattai il responsabile dicendo: se ti serve un napoletano che non sa recitare, che però ma un napoletano doc un accento napoletano, mi puoi chiamare. Lui mi chiamò per la commedia successiva, che tra l'altro era una commedia di Shakespeare, quindi ho cominciato con Shakespeare in napoletano, dizione perfetta e senza nessuna inflessione dialettale. Ma poi l'hai fatta qualche rappresentazione in napoletano o no? No. Ah, no? Anzi, c'è una... la prossima magari, questa. Interessante comunque. Ho fatto un personaggio in cui mi facevano parlare romanesco, con un accento forte. Quindi te la cavi anche ad imitare gli altri accenti? Sì, se restiamo più o meno nelle zone, se mi fate parlare in Veneto, qualche problema. Va bene. Senti Carla, ma di spettacoli come questo ce ne sono molti altri, come sappiamo. Tra l'altro c'è anche lo spettacolo, così, ne cito uno che mi viene in mente perché ho avuto ospite Vito La Raspata qualche settimana fa, che farà lo spettacolo L'Invitato, il 17 novembre ad Anversa e il 22 novembre qui a Bruxelles. Sì, diciamo che il panorama teatrale in lingua italiana a Bruxelles è abbastanza vasto. Sì. Ci sono parecchie compagnie che si muovono e propongono spettacoli. Per fortuna la cifra di ogni compagnia è diversa, per cui in effetti gli spettatori possono scegliere fra vari stili teatrali. C'è chi fa cabaret, c'è chi fa il teatro brillante, c'è chi fa il teatro un po' più impegnato, c'è chi fa il teatro classico, e quindi l'offerta è varia. Non saremo mai come gli inglesi, che mi fanno una grande invidia, perché gli inglesi veramente riescono a compattarsi intorno a un palco con una facilità incredibile. Sono molto seri, molto disciplinati e propongono sempre dei testi molto molto ben recitati, ma ci stiamo organizzando anche noi, per cui saremo molto molto propositivi nei prossimi mesi. Beh, insomma, secondo me comunque quello che fate è già ammirevole e tu appunto sei stata già regista almeno di un altro spettacolo che io sappia, ma probabilmente anche di più. Sì, di 3 o 4 spettacoli di teatro classico e poi di 2 spettacoli di teatro più politico, sociale, un po' militante, diciamo, in cui abbiamo parlato di politica in chiave teatrale, che sono stati messi qui in scena 2 anni fa e l'anno scorso, e quella è stata una bella esperienza che ha avuto molto seguito. Chiaramente il pubblico era un pubblico molto giovanile e portare i giovani a teatro è sempre una bellissima esperienza, oltre che una grande soddisfazione. Senti, ma Carla, chi pensi che sarà il pubblico di questo spettacolo, della selezione? Ma potrebbe interessare a tutti, perché penso che nella vita a tutti capita di essere selezionati per qualunque cosa, anche quando si va dal medico in un qualche modo si è selezionati, perché si passa prima o si passa dopo, si è più bravi o meno bravi, ci si sente bravi o meno bravi genitori. Si può essere amabili come vicini di casa e selezionati dagli amici per essere i migliori amici, o scartati perché si ha un carattere insopportabile. Quindi la selezione fa parte della vita, e questo testo parla appunto del modo di selezionare i candidati per un posto di lavoro, e questo modo nelle aziende moderne diventa sempre più spietato e sempre più impersonale. E talvolta non si capisce con che criterio, aggiungerei. E infatti il tema di questo spettacolo è proprio questo, indagare i criteri che ci sono dietro la selezione. Allora, passiamo ad un'altra voce di cui non abbiamo sentito molto parlare questa sera, cioè Vittorio. Tu come ti sei selezionato per Emergency? Come sei arrivato a Emergency? Beh, è Emergency che arriva un po' a tutti quando voglio dire, per il tipo di progetti che fa, per il tipo di principi che porta avanti. Devo essere sincero, io sono un caso abbastanza particolare perché conoscevo molto bene Emergency già quando vivevo in Italia. Però per motivi un po' casuali, un po' di selezione naturale direi, non mi sono mai affacciato direttamente alla realtà Emergency. L'ho scoperta un po' tardi, colpevolmente probabilmente, ma in fondo è meglio tardi che mai, una volta arrivato qui, tramite amici che già ne facevano parte, e quindi quella che era la mia idea di Emergency già in Italia è diventata concreta. E quindi entrando in questo gruppo di persone che pian piano è cresciuto, si è esteso, si è ampliato in termini di numero, di nazionalità, di caratteri, di idee, ho potuto finalmente apprezzare concretamente, direttamente, quello che Emergency è, partendo dalle persone innanzitutto, per poi arrivare ai progetti, ai principi, agli ideali di Gino Strada e compagni, diciamo. Ecco, ci vuoi parlare magari di quello che fai tu nel tuo quotidiano? Intanto, quando è che fai il volontario a Emergency? Perché fai anche altro nella vita, immagino, no? Sì, ho un lavoro normale, direi, mi occupo di telecomunicazioni, però quando ho tempo libero, quando c'è da dedicarsi ad Emergency, quando ci sono eventi particolari come questo, che è uno degli eventi più grandi che abbiamo organizzato da quando siamo nati a Bruxelles, ebbene, in questi momenti ci si dedica senza pensare a ora, due ore, mezz'ora e così via. Uh-huh. È un discorso che nasce da dentro, di conseguenza si applica, si estende ad ogni momento in cui è possibile lasciare un contributo per quanto riguarda Emergency, i suoi progetti, gli eventi a cui cerchiamo di partecipare e così via. Quindi, come diceva prima Jessica, c'è una sede qui a Bruxelles, ma in quanti siete a lavorare qui a Bruxelles? Allora, c'è da specificare che i volontari sono 63 al momento. Ah, 63. Oh, sì. E, la sede, che ce l'abbiamo avuta da poco, concessione gentilissima di una coppia di sostenitori di Emergency, che ci ha lasciato la loro casa, che sono trasferiti, ci hanno lasciato la loro casa. Per cui la sede adesso è a Avenue du Diamant. Uh-huh. Numero 96. Uh-huh. Se ci passate davanti vedete sulla finestra c'è il logo di Emergency e lì è dove stiamo organizzando tutte le riunioni, tutti gli incontri che facciamo. Abbiamo un consiglio d'amministrazione e più che sono comunque formato anche quello da volontari, perché nessuno è pagato, e 63 volontari per il momento iscritti sulla lista, sì. Quindi questi 63 volontari che ruotano per le varie attività, ma siete comunque a Bruxelles, voi non andate fuori? Per il momento siamo a Bruxelles, l'idea è che nell'ideale si creino degli altri gruppi in Belgio, non so, nelle altre città in Belgio, per cui che ci sia comunque... Adesso abbiamo creato l'ESBL, Emergency Belgium, alla quale si dovrebbero, diciamo, dovrebbero fare riferimento i vari gruppi presenti in Belgio, per cui il gruppo qui di Bruxelles si chiama molto banalmente Emergency Brussels. Mm-hmm. Abbiamo anche una pagina Facebook che si può visitare, che si chiama Emergency Brussels. Beh, è semplice da ricordare. Sì, infatti, è semplice da ricordare. Jessica, quindi qual è l'obiettivo principale di questa Emergency Brussels? Quali sono i vostri progetti? Allora, il nostro obiettivo principale ovviamente è di sostenere Emergency in generale, per cui quindi la raccolta fondi per finanziare i vari progetti che abbiamo e cerchiamo anche sempre di reclutare del personale medico, degli infermieri che siano interessati a partire. C'è anche dietro una struttura logistica per riuscire a... C'è anche dietro, ovviamente poi li mettiamo in contatto con la sede di Milano dove passano il colloquio e lì decidono se sono, diciamo, atti a partire nei progetti. Ovviamente in questo caso non si tratta di volontari, ma di persone che partono in quanto medici o infermieri o logisti e danno uno stipendio comunque sono selezionati. Certo, scelti, di nuovo selezionati. È una selezione il più trasparente possibile. Secondo in questo caso i criteri sono molto chiari. E quindi parliamo di una selezione soltanto di personale che si occupa del lato medico o anche qualcosa a livello di logistica? Ci sono anche logisti, amministratori, ovviamente non sono la maggior parte è personale medico. Poi c'è sempre bisogno per le missioni di logisti ed amministratori, questo è certo. Che gestiscono in base ai vari progetti. Che gestiscono il progetto. Progetti ne abbiamo vari. Emergency funziona così. Ogni gruppo di emergency adotta, tra virgolette, un progetto. Il progetto che il gruppo di Bruxelles ha adottato, per cui cosa significa? Che i soldi che raccogliamo vanno a finanziare questo progetto, è il progetto della Sierra Leone. Mentre per la selezione è stato scelto di finanziare il Salam Center di cardiochirurgia, che è un ospedale di cardiochirurgia specializzato in cardiochirurgia infantile che si trova in Sudan. Che in realtà, se ci sono degli eventi ad hoc per finanziare qualsiasi altro progetto che non sia la Sierra Leone, per noi va benissimo, basta sapere. Insomma, per cui in questo caso gli attori, la compagnia, hanno deciso di finanziare questo progetto e i soldi raccolti saranno destinati per questo. Per questo Salam Center, che è un progetto per noi molto, molto bello e molto particolare, perché si trova in Sudan, ma in realtà copre un'area molto più vasta, perché ci sono dei pazienti che arrivano da tutti i paesi limitrofi e copre un'area vasta tre volte l'Europa, per cui è l'unico in Africa che offre cure gratuite di cardiochirurgia infantile, che è veramente un progetto importantissimo. Forse unico nel suo genere. E unico nel suo genere, soprattutto in un paese, in un continente, in un continente l'Africa, come l'Africa. Io proporrei un altro brano musicale prima di ritornare a parlare ancora di teatro e ovviamente di Emergency. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Se volete telefonarci, il nostro numero è... lo 02-345-2656. Scusami, puoi ripetere per favore perché avevo tolto il microfono. Abbiamo qualche problema tecnico questa sera. 02-345-2656. Grazie. Se volete invece mandarci una mail, i colori dell'anima, @radioalma.eu. A fra poco. Allora, Vittorio, ci volevi dire qualcosa di Fiorella Mannoia che abbiamo appena ascoltato, quello che le donne non dicono. Ottima scelta musicale, perché Fiorella è una grande sostenitrice di Emergency da un bel po' di tempo. Bene, allora, quindi insomma Emergency è sostenuta da varie personalità anche del mondo dello spettacolo e oltretutto appunto ci sono questi legami fra spettacoli e Emergency anche nella circostanza di questa serata, perché appunto lo spettacolo di Carla guida e raccoglierà i fondi che raccoglierà per lo spettacolo andranno devoluti a Emergency, come abbiamo detto. Lo spettacolo, che per chi non ci ha ascoltato prima, non ha avuto modo di ascoltarci, si chiama La Selezione. E Carla, vuoi ridire tu qualche... Sì, volentieri. Allora, La Selezione è un adattamento tratto da El Metodo di Jordi Calgeran. Andrà in scena al Théâtre Lumen a Chaussée de Bondal 32-36, dietro Place Flagey. Le prenotazioni si possono fare via telefono o sul sito 0486 066 918. Il biglietto, che non sarà un biglietto ma una participation offrée, costerà 13 euro e sarà interamente devoluto, come si diceva prima, al progetto Salam Center for Cardiac Surgery in Sudan, progetto di Emergency. Perché abbiamo scelto di devolvere l'incasso all'associazione Emergency? Perché da anni singolarmente alcuni di noi sostengono Emergency e ci pareva bello poter lavorare dei mesi, perché ci vogliono dei mesi per preparare uno spettacolo, con una finalità, oltre che divertendoci noi, ma anche con una finalità umanitaria così importante come quella appunto di sostenere questo ospedale. E quindi nella città di Bruxelles ci si incontra fra italiani, giusto Vittorio? E voi vi siete incontrati? Esattamente, in una circostanza abbastanza conosciuta per quanto riguarda il pubblico italiano, ma in maniera anche abbastanza fortuita. Come Emergency avevamo un banchetto il giorno dello spettacolo di Paolo Rossi presso l'Istituto Italiano di Cultura. E per caso Carla si è avvicinata al nostro banchetto, dicendoci che effettivamente era già sostenitrice di Emergency da lungo tempo, simpatizzante e così via, e in due minuti in realtà è nata la collaborazione. Lei ci ha esposto il progetto che avevano in mente, cosa che avevano già fatto anche in precedenza, e senza, quindi una cosa già consolidata, e ovviamente noi dal nostro punto di vista come Emergency non potevamo che essere contenti di questa selezione ancora una volta, che ci ha reso sicuramente, ci ha inorgoglito e ci ha dato motivazioni per questo progetto molto molto ambizioso ed interessante, che speriamo si concluda al meglio fra una quindicina di giorni. Due parole sulla compagnia teatrale. La compagnia che noi abbiamo messo insieme si chiama Caffè Ristretto. Teatro in compagnia, quindi non compagnia teatrale, ma teatro in compagnia, perché noi vogliamo appunto fare del teatro stando in compagnia, fra di noi che lo prepariamo, ma soprattutto con lo spettatore, perché spesso chiediamo ad amici e a spettatori di suggerirci anche dei pezzi che loro amano in particolare per poterli poi mettere in scena. Quindi accettiamo anche suggerimenti da parte di chi ci viene a vedere. Allora, volevo chiedere anche all'attore che è presente qui in radio questa sera. No, vabbè, insomma, come dicevamo prima, le prove si stanno intensificando, ma vi divertite mentre fate queste prove o, insomma, alle volte pensate, ma chi me l'ha fatto fare? No, credo che il divertimento sia un ingrediente assolutamente necessario, anche per la buona riuscita proprio dello spettacolo. C'è bisogno di un gruppo che sia capace di fare il gruppo, di stare bene insieme, quindi anche di divertirsi. Noi, al di là delle prove che facciamo regolarmente, ci vediamo spesso, facciamo grandi cene, grandi chiacchierate, grandi bevute alle volte, quindi il divertimento è fondamentale. È chiaro che ci sono anche delle componenti di stress, di stanchezza. Noi facciamo le prove la sera dopo giornate lavorative alle volte estenuanti, eppure appunto riusciamo la passione che ci anima ci spinge a continuare, a dare tutti noi stessi per cercare di arrivare all'obiettivo finale. Questo lo facciamo anche divertendoci, sì. Carla, tu come li motivi i tuoi attori? Che cosa gli dici? Che parole di incoraggiamento? Questo dovrei rispondere io. urlando. Ma come cavolo te lo devo dire che la voce deve essere più impostata? No, veramente tu mi avevi sempre detto che qui dovevo tenere un tono basso. Ma come un tono basso? Ma come fai a dire una cosa del genere con un tono basso? Ma tu mi avevi sempre detto tieni un tono basso, intimo, profondo. Ecco, intimo, profondo, ma urla! No, l'equilibrio che si crea tra regista e attore è un'altra componente fondamentale della riuscita, perché chiaramente ci sono punti di partenza diversi. Il regista ha perfettamente in mente quello che l'attore deve fare. L'attore anche ha perfettamente in mente quello che deve fare, ma non è la stessa cosa necessariamente di quello che pensa il regista. E quindi c'è un gioco di avvicinamenti fino a quando non si trova un equilibrio tra le capacità dell'attore in questo caso e quello che il regista si aspetta che l'attore faccia. Ecco. Sì, con Carla è facile. Possiamo dire che il regista è un, mamma mia che parolona, però la dico lo stesso, mi gaso un po', è un po' come il direttore d'orchestra che fa segno ai vari strumenti di suonare, per cui non è pensabile che quando indica il trombone faccia non si può, uno si aspetta che il trombone risponda con il suono del trombone. In effetti è sempre un'alchimia, è sempre una magia quella che succede, perché giustamente come diceva Guido, è vero che il regista ha in testa una cosa, ma non sempre è la migliore ottenibile. Spesso la soluzione migliore viene proprio fuori quando ognuno tira fuori il meglio da sé. Ed è lì che si crea poi. Noi facciamo aiuto regia ogni tanto da questo punto di vista. è vero. Quindi caffè ristretto vuole dire anche che tutti ci prendiamo dei grandi caffè prima di cominciare per reggere. Ma le prove si fanno prima o dopo cena? Prima. Sei e mezza. Quindi avete pure fame, poveretti. No? 6:30, 9, sì. 7:00, 9, sempre la sera. E a volte anche la domenica facciamo una specie di full immersion. E poi praticato. Dovrete fare anche le prove nel teatro dove farete sì, lo quello spettacolo. Avverrà la prova generale la sera prima del debutto. Reciteremo solo una volta di prova, il filage finale in teatro. Immagino che tra gli spettatori ci saranno molti volontari di Emergency, vero Jessica? Certo, ci saremo. A supportarvi a vicenda, giusto? Certo, anche logisticamente cercheremo di aiutarli, comunque saremo alle casse, cercheremo di vendere forse qualche torta. Le torte fatte in casa? Ci stiamo pensando, se abbiamo abbastanza volontari che... si metteranno il cappello da cuoco che collaborano. Insomma, certo. Quello che vorremmo dire agli ascoltatori della radio è venite un po' per assistere allo spettacolo e un po' perché comunque la vostra presenza segnerà un punto a favore di Emergency. Bene, allora ancora un piccolo brano musicale, poi concluderemo la trasmissione di oggi 4 novembre. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e a fra pochissimo. Fare un'ultima domanda a Jessica o a Vittorio. Se volessimo in qualche modo contattarvi o se volessimo chiamarvi, telefonarvi, dateci qualche informazione pratica su come trovarvi. Ok, allora vi do tutte le informazioni possibili. Abbiamo un sito che in realtà è ancora in costruzione, sarà pronto a breve, vi do comunque l'indirizzo ed è www.emergencyb.org. Se non dovesse funzionare, se non dovesse essere ancora pronto quando lo guarderete, potrete sempre visitare il sito www.emergency.it, che è il sito italiano, e comunque lì ci sono tutti i progetti e le informazioni su Emergency in generale. Per contattare il nostro gruppo qui in Belgio, per cui la sede, potete scrivere all'indirizzo email info@emergencybe.org oppure sempre potete contattarci via Facebook, la nostra pagina si chiama Emergency Brussels. Ecco, perché giustamente anche Emergency deve avere una pagina Facebook. Certo. Rosanna, soltanto tu non ce l'hai. Ce ne sono varie. Anche l'attore non ce l'ha. Siamo in due. Grazie, mi sento meglio adesso. Siamo moderni noi. No, ma in effetti è uno dei veicoli più facili per soprattutto per le persone giovani. Certo. E siamo sempre alla ricerca di volontari, di medici, di persone con buone iniziative, nuovi progetti. O semplicemente che magari vogliono veramente fare dell'esperienza. Certo. Perché? Forse sì, persona che voglia contattarci è più che benvenuta. Bene, allora Carla, ricordaci di questo spettacolo. Sì, allora, siete tutti invitati a venire a vedere La Selezione il 15 e 16 novembre, Théâtre Lumen, Chaussée de Bondal, 3236, dietro Place Flaget. Vi potete prenotare al numero telefonico 0486 066 918 oppure la prenotazione gratuita diretta su Eventbrite sul sito www.cafferistretto.org. Cos'altro ripetere? Vi ripeto il nome degli attori perché sono tutti talmente bravi che mi farà un gran piacere se verrete a complimentarvi con loro dopo lo spettacolo: Tiziana Arcarese, Gianluca Brunetti, Guido Castellano, Alessandro Cisotta, Rosalba Romagnoli, Agnese Litti. Naturalmente la compagnia Caffè Ristretto è formata anche da altre figure: il suggeritore, colui che fa le luci, i suoni, che ha curato l'aspetto grafico del materiale propagandistico, la persona che ci truccherà, che truccherà gli attori prima di entrare in scena. Insomma, è un'equipe in movimento. Va bene, poi invece i mobili hai detto che li portate voi. Gli oggetti di scena sì, noi di solito svaligiamo casa e portiamo tutto quello che può servire per creare una scenografia. Quindi sì, Rosanna, se devi traslocare. Vabbè. No, volevo dire che noi risparmiamo sulle scene per poter permettere poi di dare più soldi ad Emergency, quindi certo, c'è anche un... Certo. Insomma, un motivo così, un molto motivo più serio, molto serio. Allora, io comincerei col ringraziare Vittorio e Jessica. Ma grazie a voi. Grazie, a voi. Grazie che sono volontari di Emergency, in particolare di Emergency Brussels, Belgium, che appunto si è costituito poco tempo fa, quindi adesso esiste Emergency, e che oltre ai rispettivi lavori, insomma, vi dedicate nel vostro tempo libero a questa attività. E insomma, speriamo che stasera ci sarà qualcuno all'ascolto che deciderà di aderire ad Emergency Brussels Belgio. Sarebbe un piacere. Grazie. Grazie a Guido. Grazie a voi. Continua a fare l'attore, mi raccomando. Sì, non mancherò. Tra l'altro vorrei dire, se c'è qualcun altro in ascolto che ha voglia di cimentarsi in attività teatrali, che ha voglia di provare a cambiare pelle come facciamo noi quando facciamo le prove o le commedie, ci può contattare anche al nostro sito web e proporsi per una collaborazione possibile in futuro. Va bene, quindi per spettacoli dopo questo che la selezione. Grazie a te Carla. Grazie a voi che ci avete ospitato. Ricordo che anche voi siete volontari e quindi anche voi dopo il vostro lavoro date la vostra attività per la cultura e per la lingua italiana. Sì, sì, grazie. Anche noi cerchiamo di dire le parole intere, come dicevate voi prima, che rischiamo di mangiarci la fine delle parole. Questo è un difetto di tutti. Va bene, allora grazie ad Anna Maria naturalmente. Grazie a te Rosanna. E grazie a tutti i radioascoltatori, da me Rosanna, mi raccomando. A teatro! A teatro il 15 e 16 di novembre. mi raccomando, rimanete sintonizzati con Radio Alma, e mentre i colori dell'anima, come sapete, torneranno lunedì prossimo. Buonasera a tutti. Buonasera.